in primo piano. Ed eccoci dunque alla lettura dei quotidiani. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. E mi hai fatto comprare un sacco di giornali la settimana scorsa, tu e le tue segnalazioni. Hai questa capacità di intrigarmi, portarmi dentro. Che mi segnali oggi? Ma oggi è bella, è una di quelle giornate in cui i giornali non hanno tutti la stessa apertura, quindi gli argomenti sono diversi e poi naturalmente tanti approfondimenti all'interno. A cominciare da questa iniziativa del Sole 24 Ore, come l'anno scorso, forse perché diciamo sempre che in estate si ha un pochino più di tempo per leggere, in questo caso leggere e archiviare, perché con oggi inizia questa appunto estate con il sole, ogni giorno due pagine di consigli utili. La prima settimana è dedicata a tutta la casa e al condominio. Casa e condominio sono temi che attraversano a volte la pazienza e il senso di sopportazione di tante persone, basta andare a un'assemblea condominiale, dunque li leggeremo volentieri. Giulia, buon lavoro, buona lettura. A più tardi, tra l'altro Irene, avete sentito, più tardi affronterà molti argomenti, anche comunque quello legato all'estate dei campi vacanza, vediamo se troviamo anche noi qualche altra segnalazione su questi temi oggi. Ma vi dicevo appunto, quindi partiamo dal Sole 24 Ore perché oggi inizia questa iniziativa che poi ci accompagnerà per tutto il mese di agosto. È presentata sulla prima pagina del Sole da Salvatore Padula, che è uno dei vice direttori del Sole 24 Ore, e appunto il titolo Casa, Pensioni e Risparmio è proprio una guida per la famiglia. La prima settimana, come dicevamo, è tutta dedicata a quel grande tema che è la casa, e sappiamo che ci sono anche molte incognite sia per quest'anno che per l'anno prossimo, con la promessa che ha fatto Renzi di togliere la tassa sulla prima casa, quella che si pagava IMU e che si chiamava IMU, poi ha cambiato nome tante volte, ma appunto vedremo. Quello fiscale è solo uno dei tanti temi trattati in queste prime due pagine. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche un approfondimento che poi guarderemo meglio all'interno, a proposito di tasse, un'analisi fatta su questa classifica che si chiama Taxpayer, che misura il rapporto tra il livello delle imposte e le spese per i cittadini. Tasse contro servizi, ecco chi vince. E viene fuori da questa analisi che è nelle Marche il mix più efficiente. Ci sono tante aree in cui si può migliorare. Il commento di Gianni Trovati: rischio miliardario sui prestiti delle regioni, che poi trovate a pagina 4. Vi dicevo quindi 2 e 3 oggi, pagine 2 e 3, primo appuntamento che poi, come abbiamo detto, continuerà per tutto il mese di agosto, e noi finché sarò io qui tutta questa settimana lo segnaleremo, e poi lo stesso naturalmente faranno i miei colleghi nelle prossime settimane, perché i temi cambieranno di settimana in settimana. La prima pagina del Corriere della Sera ha una fotonotizia dedicata a una foto che ha fatto, credo, il giro del mondo, una foto scattata ieri in Sardegna, a Villa Certosa, una delle residenze estive dell'ex premier Silvio Berlusconi, viene definita quella della firma del Milan per la cessione in parte a Mr. B, che è scritto naturalmente B-I-I, e per una coincidenza, insomma, abbiamo Mr. B, B come Berlusconi, e Mr. B il finanziere. C'è la firma, soldi per il mercato, la prima promessa, anche se tra l'altro il Milan comunque ha già fatto alcuni acquisti e, come abbiamo visto nei giorni scorsi, le prime partite amichevoli hanno fatto felici il neo allenatore Mihajlovic e tutti i tifosi. Ma in realtà il titolo principale del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera è linea dura sulle discoteche. Ieri, forse lo ricorderete, abbiamo parlato del reportage che c'era proprio sul Corriere della Sera di due pagine dal Cocorico, la discoteca dove il 19 luglio aveva perso la vita un ragazzo di 16 anni per aver preso troppe pasticche di ecstasy. La decisione del questore è stata adesso di chiudere per 4 mesi questa discoteca, e Andrea Pasqualetto e Fiorenza Sarzanini ci raccontano la parte diciamo proprio tutta la parte legale, come si possono prendere questi provvedimenti e su quali basi sia stato preso. Poi c'è un titolo anche dedicato a quello che il premier ha detto da Tokyo, perché i nostri politici hanno un po' questa abitudine che anche quando sono in viaggio all'estero poi esternano su questioni molto italiane. Così ha fatto ieri anche Renzi, che ha cercato di rispondere agli appelli fatti sull'emergenza sud dopo il rapporto Svimez che abbiamo visto pubblicato nella settimana scorsa, che dà ancora questo gap gigantesco, anzi crescente, tra nord e sud del paese. E Renzi ha risposto: gli aiuti al sud sì, ci saranno, basta però pianistei. Questo è il virgolettato scelto dal Corriere della Sera. La Repubblica invece sceglie di titolare su Renzi, ma sulle ennesime dimostrazioni che ci sono grandi tensioni all'interno del PD, perché una delle altre cose che ha detto Renzi da Tokyo è dico no al Vietnam, perché una delle accuse, dei proclami lanciati dai ribelli, dalla minoranza Dem, chiamiamola come vogliamo, insomma da tutti quelli che nel PD, e sono una minoranza in realtà, quelli che nel PD sono contrari a molti provvedimenti del governo Renzi e anche al suo stile, se vogliamo, e hanno proprio parlato loro di un Vietnam in Parlamento, e Renzi ha risposto dico no al Vietnam e sono anzi pronto a un'intesa con la minoranza, ma non se vogliono farmi cadere. E vi segnalo in realtà la fotonotizia di Repubblica, perché riguarda riguarda Israele, un altro, il Medio Oriente, il conflitto israelo-palestinese che abbiamo visto in questi giorni. Da quelle zone stanno arrivando molti segnali preoccupanti, prima i disordini al Gay Pride, poi l'uccisione che il premier israeliano Netanyahu ha definito terrorismo da parte di un colono, di un bambino di 18 anni, perché questo colono di 18 mesi, perché questo colono ha dato fuoco alla casa di questo bambino. E allora ieri Netanyahu è di nuovo intervenuto, in realtà in questo caso non in connessione con la morte del bambino di 18 mesi, ma con la morte di Shira Banki, che è una delle vittime di questo attentato che c'era stato qualche giorno prima durante il Gay Pride. Netanyahu ha promesso gli estremisti pagheranno, perché anche in quel caso l'assassino era un estremista ebreo. C'è un interessante intervento dello scrittore David Grossman. Due giorni fa, forse lo ricorderete, c'era un'intervista a Abraham Yehoshua, un altro importantissimo scrittore israeliano, che diceva, esprimeva tutta la sua preoccupazione per le tensioni crescenti, e questa volta è Grossman che fa questo appello alle destre israeliane. David Grossman si è speso tantissimo in favore del dialogo tra israeliani e palestinesi. Tra l'altro Grossman, oltre a essere appunto uno dei maggiori scrittori israeliani viventi, e anche un'esperienza personale proprio di padre che ha perso un figlio che faceva il soldato durante questo interminabile conflitto israelo-palestinese. E quindi il suo appello non tanto ai palestinesi ma alle destre israeliane, perché si è vista proprio appunto una recrudescenza della destra israeliana e che non fa che acuire le tensioni. C'è chi già parla di una terza intifada possibile. La prima pagina della Stampa ha un titolo ancora diverso, questa volta fa riferimento all'offensiva di Obama sul clima. C'è questo Obama manca ancora più di un anno alla fine del suo secondo mandato, però come scrive Gianni Riotta nel suo commento, forse sono questi i momenti in cui si dà spazio, proprio perché non si ha, tra virgolette, più niente da perdere. Obama non sta cercando la rielezione, si affrontano anche argomenti che magari nei periodi precedenti si sono affrontati con meno grinta, perché naturalmente toccano interessi molto forti, in questo caso sono gli interessi della grande industria. In attesa del vertice ONU di Parigi, la Casa Bianca punta alla riduzione delle emissioni di CO2 addirittura del 32% entro il 2030, quindi un piano green, come appunto scrive la Stampa, ancora più aggressivo. C'è all'interno un grande approfondimento, ma vi segnalo anche, e se c'è tempo più tardi ne leggeremo una parte, altri due approfondimenti sul welfare aziendale, due casi americani, uno della Virgin, della compagnia di Richard Branson, e uno della Nestlé, il colosso della grande distribuzione, anche del largo consumo, e fanno scuola per aver introdotto delle misure di welfare aziendale. Anche in Italia abbiamo tantissimi casi, Luxottica per esempio, che è una delle poche multinazionali che abbiamo in Italia, un'azienda da oltre 8 miliardi di euro di fatturato all'anno, che ha delle pratiche appunto di welfare aziendale. È una strada, soprattutto in tempi, lo sappiamo, in cui ormai alla pensione tradizionale bisogna aggiungere una pensione integrativa, e magari appunto ci sono aziende che poi integrano a loro volta con il loro welfare. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso, sempre il nome Renzi c'è, però il focus è sugli statali, e poi vedremo sul Messaggero che il Messaggero riepiloga un po', perché sapete che è passata la riforma sulla pubblica amministrazione, sta per passare la riforma sulla pubblica amministrazione. Il premier da Tokyo ha detto giovedì ci sarà l'ok definitivo, e quindi il Messaggero fa poi un po' ricapitola tutte le novità sugli statali. il Messaggero ha anche un accenno all'appello che ieri Renzi ha fatto ai sindaci, anche su questo naturalmente c'è, è tutta una discussione aperta, perché abbiamo citato prima il taglio della tasse, delle tasse sulla prima casa, e quello è il primo tributo locale, cioè un tributo su cui i sindaci fanno molto affidamento, e quindi la prima reazione quando Renzi aveva annunciato il taglio della delle tasse sulla prima casa era stata quella dei sindaci, e dicendo ancora tagli, come faremo a garantire i servizi. E allora ieri Renzi li ha punzecchiati ancora un po' e li ha invitati a rimboccarsi le maniche per rendere le loro città più presentabili e pulite. C'è anche un approfondimento sulla questione della sanità, ne abbiamo parlato tantissimo lunedì e martedì scorso, perché domenica, non ieri, ma domenica, la domenica precedente, ricorderete la famosa intervista di Yoram Gutkel da Repubblica, consigliere, il principale consigliere economico del governo Renzi, che annunciava tagli alla sanità per 10 miliardi. Poi questi tagli nell'immediato sono diventati di 2,3 miliardi, però il Messaggero ci racconta le novità in ospedali e ambulatori dopo questa stretta. TAC, ricoveri e gravidanze, ecco come cambia la sanità. Il Giornale si concentra su Renzi, siamo al Vietnam e addirittura nell'occhiello napalm sul PD. Il napalm è quel gas tremendo, quel gas assassino potremmo dire, che è stato usato durante la guerra in Vietnam, veniva sparso dagli aerei americani sulle foreste, e ovviamente per colpire tutti i guerriglieri che si presumeva ci fossero all'interno. Quindi napalm sul PD, questo l'occhiello del titolo del giornale. Vi segnalo poi che continua la serie iniziata ormai 10 giorni fa di queste lettere d'amore, una delle tante iniziative estive dei quotidiani. Il Giornale appunto ha scelto questa di pubblicare delle lettere d'amore di non famose, ma magari di letterati o di personaggi famosi, e poi quasi sempre non più viventi, e poi però affiancarle con una risposta immaginaria invece di una persona che è assolutamente ancora tra noi. In questo caso la lettera originaria è di Publio Ovidio Nasone, cioè di Ovidio: moglie lontana e sofferente, piango la tua pena, questo è il titolo, e poi invece la risposta, così ripeto immaginaria, di Barbara D'Urso: le parole di carta sono rifugio e cura. Vi segnalo anche un'inchiesta che poi si trova all'interno del supplemento Controcorrente alle pagine 11, 12 e 13, l'arte è il nuovo affare della mafia, dopo droga e armi il business si fa con i falsi e con 1 milione di reperti rubati, un'inchiesta appunto di Stefano Zurlo. L'Unità titola sul piano per il Sud, ci sarà un Renzi, come ho detto, ha accolto in un certo senso tutti questi appelli fatti sul Sud nei giorni scorsi. Il titolo dell'editoriale dell'Unità è Il Mezzogiorno bloccato, di Federico Pirro, e fa riferimento anche, ed è anche un appello, a quella direzione del PD convocata da Renzi per il 7 di agosto, in cui all'ordine del giorno ci saranno anche eventuali nuove misure per il Sud. C'è dalla prima pagina dell'Unità la fotonotizia dedicata ai danni subiti da Firenze dopo l'uragano. Si fa già appunto anche un bilancio di tutta la solidarietà che è arrivata, anche il sindaco Marino si è offerto di aiutare Firenze in questa emergenza. E poi alle pagine 2 e 3 in realtà trova spazio questo sondaggio fatto per l'Unità dalla SVG. Il senso di questo sondaggio è: stufi di chi sa dire solo no, cresce la partecipazione, cambiare il paese è la nuova priorità. L'indagine SVG sulla partecipazione fotografa una società in movimento, stanca di dire solo no e con la voglia di impegnarsi per qualcosa di concreto. Piccoli segnali in effetti ci sono stati, anche ricorderete settimana scorsa l'iniziativa lanciata da Alessandro Gassman, l'attore, che ha invitato tutti i romani con il hashtag su Twitter Roma sono io a pulire, a dare un piccolo contributo al miglioramento della città. La prima pagina del Fatto Quotidiano, ma a proposito di Roma, Roma l'ultima fermata, la storia di Copertina, appunto un'inchiesta del Fatto che cerca un po' di fare il punto. Secondo il Fatto, le quattro priorità di Roma su cui Marino ha comunque modo di agire sono i rifiuti, il traffico, le buche e la salvaguardia del patrimonio artistico. Grandi questioni, altrettante soluzioni, ma Marino saprà metterle in atto. E ci lasciamo un attimo per un paio di minuti, ci ritroviamo subito dopo con gli approfondimenti dalle pagine interne dei quotidiani. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. La prima cosa che devo fare è prendere spunto e anzi ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno mandato un sms per spiegarmi che il napalm non è un gas ma una sorta di gelatina di benzina altamente infiammabile. Chi appunto chi dice gelatina di benzina, chi benzina gelatinata. In ogni caso l'effetto lo abbiamo visto tutti in tante immagini e anche in tanti film. Fatta questa precisazione sul napalm, torniamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che oltre ad avere l'inchiesta su Roma Capitale e sulle emergenze che Marino potrebbe ancora affrontare, secondo il Fatto, c'è un'altra inchiesta fatta da proprio un'inchiesta del Fatto Quotidiano sul Messico. E mi ricollego anche all'argomento che tratterà Irene in Spunti di Vista dopo la rassegna stampa, cioè il potere dei trafficanti di cocaina. E in questo caso il titolo è Fosse Comuni, l'orrore a conquistato il Messico, tutto in mano ai narcos e lo Stato ormai è soltanto un complice. Ricordo a questo proposito anche la fuga qualche settimana fa, lo ricorderete, del narcotrafficante numero uno, il cosiddetto El Chapo. E sulla CNN un esperto di narcotraffico, ma anche di Messico, raccontava che è facile per noi così criticare, magari perché c'è stata chiaramente la complicità delle guardie carcerarie, dire ma come è stata possibile una fuga così, e spiegava che mentre magari in America quella fuga rocambolesca che abbiamo visto di due detenuti da un carcere di massima sicurezza è stata resa possibile dalla complicità di una guardia carceraria che si era del personale del carcere che si era invaghita di questi due detenuti, qui sono ben altre le questioni, cioè vengono talmente minacciati con i crimini più orrendi dai narcos che è difficilissimo resistere quando appunto i narcos minacciano non soltanto te ma tutta la tua famiglia. Quindi questo clima di terrore che c'è in Messico, e il Fatto si spinge a parlare di complicità dello Stato, è ben raccontato in questa inchiesta sul Fatto. Sul Foglio invece, il Foglio del lunedì raccoglie il meglio, secondo il direttore del Foglio Claudio Cerasa e il suo fondatore Giuliano Ferrara. Oggi la parte principale è sempre un collage di citazioni e l'argomento è il leone Cecil, che sapete, il grande felino del Parco dello Zimbabwe, che è stato ucciso da un cacciatore la scorsa settimana, scatenando poi quello di cui parla anche il Fatto, cioè il linciaggio sul web. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, dedicata un po' alle partite di ieri, quindi l'Inter che ha perso contro il Galatasaray, e quindi Inter e i gol, e poi naturalmente la notizia che abbiamo detto della firma arrivata ieri in Sardegna, e quindi il titolo della Gazzetta, il Milan di B&B, appunto B scritto B come B dell'alfabeto e B invece il nome del nuovo proprietario del Milan. Ma, torniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, lo avete sentito nella controcopertina del GR, ma poi qui trovate lo schema e lo potete visualizzare, questa importanza dell'export. Quindi a pagina 7, con l'export le imprese triplicano i ricavi, quindi un'analisi di come lo abbiamo visto, insomma l'Italia è stata salvata dalla sua vocazione all'export, alle aziende italiane in questi anni di crisi, e qui ci sono i numeri a dimostrarlo. E poi il commento, l'analisi di Micaela Capellini, che però si focalizza ancora una volta su quello che viene definito il fardello dimensionale che penalizza il Made in Italy, ed è anche questo un argomento che torna sempre, ne abbiamo parlato tanto anche in occasione dell'accordo dell'acquisizione di Italcementi da parte del gruppo Heidelberg, che ha creato un colosso internazionale e che così può veramente competere sui mercati. Quindi il tema della dimensione che conta, piccolo è bello in molti casi, anche se però è anche vero che poi è necessario, soprattutto appunto per chi vuole internazionalizzarsi, raggiungere una certa dimensione critica. Un altro approfondimento del Sole 24 Ore, a pagina 9, con anche qui un'infografica che aiuta in una sola occhiata a focalizzare, a inquadrare il problema. Il titolo: sui giovani aumenta il carico degli anziani, sfiora il 22% la percentuale degli over 65 in Italia, il saldo tra nascite e decessi nel 2014 ha chiuso in negativo, meno 96.000. quindi il bilancio demografico in Italia, lo sappiamo, in Italia si fanno pochi figli, l'Italia è un paese che invecchia, qui ci sono proprio i numeri a dimostrarlo. Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore l'esperto risponde, In copertina trovate soprattutto il richiamo a tutte le domande e risposte sull'ISEE, quell'indice che poi serve ad avere anche accesso a una serie di facilitazioni. Per esempio, in questo caso, visto che ci avviciniamo anche all'inizio dell'università, nucleo familiare flessibile per l'ISEE dell'universitario. Quindi come accedere alle agevolazioni, cioè tutto in questo domanda e risposta dell'esperto risponde. Ma anche, per passare a un altro argomento, sempre sull'esperto risponde, ma nella sezione risparmio e famiglia, una domanda e risposta sui temporary shop, che sono, sapete, quei negozi che aprono a tempo e che però hanno regole particolari. Passiamo alle pagine interne del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera torna su un'altra questione che anche qui a Radio 24 affrontiamo spesso, che è quella del debito che lo Stato ha verso le imprese. Deve essere pagato, ci spiega il Corriere della Sera, che fa un primo bilancio delle promesse del governo, perché nel 2014 il governo aveva promesso che entro il 21 settembre avrebbe saldato i debiti con imprese e fornitori, utilizzando tutti i 56,2 miliardi di euro stanziati alla fine del 2013. La realtà è che deve ancora essere pagato un terzo dei debiti della pubblica amministrazione. E anche qui tutta un'analisi con anche uno specchietto che ci fa capire quanto sia diversa l'Italia rispetto ad altri paesi su questi pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. La differenza rispetto alla media europea dei giorni di pagamento è di 110, l'Italia rispetto agli altri paesi europei. Quindi abbiamo parlato delle prossime elezioni americane, che si terranno nel novembre del 2016. Abbiamo visto che insomma si stanno già profilando, definendo i due schieramenti che poi andranno alle rispettive primarie, quello dei democratici e quello dei repubblicani. Oggi Maria Laura Rodotà ci racconta la faida infinita tra i Clinton e la penna femminile più velenosa d'America, che è Maureen Dowd, scrive sul New York Times, e ce l'ha molto con Hillary. L'ultima definizione poco lusinghiera che ha dato della moglie di Bill Clinton, che è in questo momento la candidata più forte dei democratici, è: Hillary è un'icona golosa che squazza nei soldi. E poi c'è un accenno alla corsa di Donald Trump, che sapete invece in questo momento è il principale candidato del Partito Repubblicano. E poi però ieri, infatti, c'è una sua foto, è spuntato anche il nome di Joe Biden, attuale vicepresidente, che potrebbe invece, contrariamente a quanto aveva detto in passato, candidarsi come candidato naturalmente democratico. Un approfondimento di Fabrizio Caccia a pagina 21, Vaticano low cost, niente auto blu, ristoranti di lusso e vesti costose, così l'austerità di Francesco sta cambiando la curia. Se ne parla spesso di questa volontà di Papa Francesco di appunto cambiare completamente lo stile del Vaticano, e qui ci sono una serie di dati e di racconti di Federico Caccia, che ci racconta anche la giornata tipo di Papa Francesco, che inizia alle 4:30, questa è l'ora della sua sveglia. Su Repubblica un approfondimento su quello che potrebbe essere l'evoluzione dei sindacati in quello che probabilmente sarà un autunno caldo. Rappresentanza, legge più vicina, sapete che si è parlato di una nuova legge sulla rappresentanza. Poi c'è un'intervista a Anna Maria Furlan, che è il numero uno della CISL, il secondo sindacato italiano, e il virgolettato scelto per titolare l'intervista è: sindacati sotto il 5% esclusi dal diritto di indire gli scioperi. Anche su questo si è discusso molto, naturalmente all'indomani degli scioperi selvaggi indetti da sigle sindacali, che hanno appunto rappresentano una percentuale minima, magari a volte appunto sotto il 5% dei lavoratori, eppure in qualche modo riescono a indire uno sciopero e bloccare un servizio. A proposito di elezioni, abbiamo detto ieri che Angela Merkel ha già deciso di candidarsi per il quarto mandato come cancelliera. Le elezioni in Germania si terranno nel 2017, si terranno anche in Francia le elezioni, però ci racconta Bernardo Valli sulla Repubblica, in questo caso forse a François Hollande non conviene ricandidarsi. Mentre Angela Merkel può puntare a un quarto cancellierato, François difficilmente potrà ricandidarsi nel 2017. Il suo consenso è ai minimi e la disoccupazione al 10%. Il titolo di questa pagina: la sfida di Hollande, il Corriere francese che è rimasto senza la Francia. Parlavamo del titolo della Stampa sul clima, sull'emergenza clima, e su come Obama abbia deciso di darsi obiettivi più ambiziosi sulla riduzione, per esempio, dei gas serra, per concludere anche con questo successo forse il suo secondo mandato. E allora Roberto Giovannini, per esempio, ci fa un approfondimento sulle centrali che ancora ci sono nel mondo, che funzionano a carbone e sono altamente inquinanti. Molte di queste sono in Cina. Difficile liberarsi di quelle centrali poco costose e facili da costruire. La Cina produce la metà del carbone estratto nel mondo, ma ne consuma tanto da doverlo importare, e per molti paesi emergenti è una voce primaria dell'export. Quindi si può puntare sulle energie rinnovabili, e nello schema pubblicato dalla Stampa si mostra anche che l'Italia, per esempio, in questo caso è già a buon punto. In Italia il 36,9% dell'energia viene da fonti rinnovabili, quindi solare, eolico, geotermico e idroelettrico, però ci sono paesi o che ne hanno bisogno, perché appunto hanno bisogno di energie fossili invece, come quella classicamente quella del carbone, perché è più facile ottenerle, o addirittura appunto ne devono addirittura importare, il caso della Cina. Vi dicevo, l'approfondimento della Stampa su questo welfare aziendale lo trovate a pagina 11. Per esempio la Nestlé, che offre 14 settimane di congedo per mamme e papà, una nuova forma di welfare. Tenete anche presente che il nostro welfare per esempio sui congedi parentali è molto più generoso di quello di altre aziende, quindi la Nestlé, per esempio, in alcuni paesi probabilmente con questo tipo di integrazione aziendale supplisce anche a una possibilità che le leggi nazionali non offrono. E poi invece il caso della Virgin. La Virgin rivoluziona il lavoro, titola la Stampa, ferie illimitate ai dipendenti. Il fondatore Branson ha detto: l'impiegato può decidere di stare dove preferisce se riesce a portare a termine i compiti assegnati. Questo famoso cambiamento di mentalità, cioè non tanto stare in ufficio seduti alla propria scrivania, ma ricevere o darsi un obiettivo, raggiungerlo entro i tempi stabiliti. Dove lo si fa, se da casa o magari addirittura sotto un ombrellone ma col computer in mano, poco importa. È naturalmente proprio un cambiamento culturale ancora prima che organizzativo. Dal Messaggero vi dicevo l'approfondimento su cosa cambierà per gli statali, e lo trovate a pagina 3 questo schemino con tanti punti. Il titolo: meno burocrazia e il dirigente sarà licenziabile. Questa riforma della PA, che dovrebbe essere approvata, come ha detto Renzi, dal Giappone entro giovedì, ha moltissimi cambiamenti. C'è anche un approfondimento che ci dà l'idea di quante persone siano interessate. Nel 2008 gli statali, che naturalmente si intendono tutti i dipendenti della scuola, dei ministeri, le autonomie locali e la sanità eccetera, erano 3.436.814. Oggi sono 3.232.000, e probabilmente nel 2014, non c'è il dato del 2014, questo del 2013, sono ancora diminuiti. Ci fermiamo però un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Vi segnalo da Il Giornale un'intervista a Maurizio Gasparri, che è il senatore, vicepresidente del Senato, senatore di Forza Italia, e sapete che l'attuale legge con la quale anche verrà delineata la nuova RAI prima che entri in vigore la riforma porta il suo nome, e quindi tutto sommato una soddisfazione, perché si era detto da parte del governo, si era detto molte volte che questa legge andava cambiata drasticamente. Poi sapete, settimana scorsa su questa legge, su questa riforma, il governo è andato sotto, e quindi appunto il nuovo CDA RAI verrà eletto con la legge Gasparri. E quindi il virgolettato scelto dal Giornale per intitolare l'intervista di Vittorio Macioce, cioè: imitavano per ridere, però hanno imitato pure la mia legge vituperata. Vicepresidente del Senato, la mia RAI è migliore di quella della riforma. Renzi promette la BBC, ma sogna Tele Matteo. E poi naturalmente Gasparri si toglie qualche sassolino dalle scarpe, non fa previsioni su come sarà composto il nuovo CDA RAI, anche se dice sicuramente ci sono battaglie in corso, ci sono persone che si stanno autocandidando, e racconta un po', ci dà forse uno squarcio su quali sono i retroscena poi quando si prendono queste decisioni. E dice candidamente però che il suo candidato ideale per la presidenza della RAI è Ettore Bernabei, che dice: in 15 anni ha fatto grande la RAI, a uno così affiderei tutto. Dicevamo dal Fatto Quotidiano questa inchiesta sui narcotrafficanti che è veramente molto fa paura, però è molto interessante. Non ho visto di recente una simile fotografia della situazione in Messico e quindi la trovate a pagina 12 e 13. Messico, horror, fosse con migliaia di morti. Con la complicità delle autorità locali hanno reso il paese uno dei più pericolosi al mondo. Ogni giorno i parenti scavano per cercare i tanti dispersi. Forse ricorderete tempo fa, erano in gennaio, nel settembre del 2014, e poi dopo 4 mesi c'era stato un primo ritrovamento, un primo risultato dell'inchiesta, però nel settembre del 2014 erano scomparsi 43 studenti e ancora non si sa dove. 10 mesi fa appunto si erano avute delle notizie, il governo aveva cercato di convincere che i ragazzi forse erano ancora vivi, in realtà questi ragazzi sono scomparsi, si teme che siano stati proprio tutti uccisi dai narcotrafficanti, perché questi erano ragazzi che avevano cercato di organizzarsi e organizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione appunto dello strapotere dei narcotrafficanti. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo anche un altro tema che ogni tanto viene trattato, specie quando si avvicina l'estate, da un paio forse anche più di estati a questa parte, un tema che viene trattato dai giornali, che è quello dei costi dei traghetti per andare in Sardegna. E allora l'approfondimento di Barbara Cataldi spiega che è la mancanza di concorrenza che uccide il turismo in Sardegna. Le navi sono tutte gestite da Moby e le tratte sono carissime, un monopolio senza avversari. Pensate che dal 2012 l'aumento del prezzo dei traghetti per l'isola è stato del 150% e il numero delle presenze è sceso del 40%. Gli amministratori locali sono furibondi, la colpa secondo loro è della privatizzazione della Tirrenia decisa nel 2008 affidata a un cartello. E passiamo ancora ad altri approfondimenti, ce ne sono tantissimi sui giornali, come vi dicevo Il Foglio, che raccoglie quello che secondo i responsabili del Foglio è il meglio della stampa della settimana precedente. Non vi segnalo gli articoli dei quotidiani perché quelli magari qualcuno l'abbiamo visto anche noi, ma quelli magari tratti dai settimanali, dai magazine. Allora, per esempio, o dai mensili, il Foglio cita un articolo apparso su Linus. Sapete che Linus è appena tornato in edicola con un nuovo Linus, anche se con molti legami con il passato, quindi questo numero di giugno che è ancora in edicola, con un articolo molto bello sulla questione linguistica in generale, sul fatto e su come chi possiede più di una lingua riesce magari è bilingue, trilingue o comunque ha una lingua madre e poi ne conosce altre bene, ha proprio un'elasticità mentale migliore. Vi leggo la prima parte di questo articolo di Bruno Ballardini. Non molto tempo fa sul New Yorker qualcuno ha ricordato i vantaggi del bilinguismo. L'articolo iniziava citando Wittgenstein dal suo Tractatus Logicus Philosophicus. I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, e proseguiva spiegando che la quantità di parole di cui disponiamo influisce sulla nostra visione del mondo. Più ne possediamo, più ampia sarà la nostra percezione. Quando impariamo un'altra lingua, impariamo a vedere meglio il mondo. Sono numerose le ricerche che lo confermano. Dunque, coltivare il bilinguismo o il multilinguismo è una ginnastica preziosa che permette al nostro cervello di crescere, potenziando la gestione dei processi cognitivi superiori, come la capacità di risolvere problemi, l'uso della memoria, la capacità di sviluppare il pensiero. Dal Corriere della Sera invece una storia che ci racconta Gian Antonio Stella, questa volta non una delle sue documentatissime denunce dei mali italiani, ma un aspetto positivo dell'Italia. Ci racconta la Mermec di Monopoli, questa azienda pugliese che ha firmato un accordo con le ferrovie giapponesi e così sarà italiana la tecnologia per gli Shinkansen, cioè l'alta velocità nipponica. E il patron di questa azienda, Vito Pertosa, ha raccontato a Gian Antonio Stella: c'è un sud che funziona. Un'altra bella storia dall'isola di Pianosa, questa volta è Sergio Rizzo, anche in questo caso altro fustigatore, insieme a quattro mani con Gian Antonio Stella, di tutti i mali italiani. E questa volta ci racconta invece la storia degli ex detenuti dell'isola di Pianosa, o ancora detenuti. Il detenuto porta i turisti in carrozza, camerieri, giardinieri, Spazzini. In 30 scontano la pena nell'ex carcere lavorando con i cittadini liberi. dalla Repubblica, una notizia high tech se vogliamo, ci potrebbe presto essere questo specchio magico che ogni mattina misura la nostra salute, quindi non specchio delle mie brame, sono io la più bella del reame, ma servirà per esempio misurare la pressione o darci il valore del colesterolo, ogni giorno una sorta di check-up in diretta. E la Repubblica ha intervistato Sara Colantonio dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR di Pisa, che dice: uno strumento educativo per facilitare la prevenzione. E poi veramente vi raccomando questa intervista a quello che è forse uno dei più importanti intellettuali viventi oggi, George Steiner, che vive a Cambridge, e lo ha intervistato Nicholas Shakespeare, che è uno scrittore, ma è anche, appunto, a volte si dedica a queste lunghe interviste. L'intervista è apparsa su Newsweek e la Repubblica l'ha tradotta. George Steiner parla di tutto, parla soprattutto di libri, comunque dell'importanza della cultura, di questo che lui si occupa, quindi è questa la cosa che gli sta più a cuore, occuparsi di cultura ma soprattutto cercare di trasmetterla. E il senso di quello che dice è il tempo dell'odio, ma la gente riscoprirà la riflessione e la musica, se ci sarà una guerra torneremo a leggere. Ha 86 anni George Steiner, ma da sempre è un po' una specie di monaco dei libri e cerca appunto di trasmettere questo amore per l'approfondimento anche personale. Ognuno può trovare la sua strada, perché, come diceva un mio professore al liceo, tutto è già stato scritto, insomma, cerchiamo e troveremo delle risposte o comunque degli spunti di riflessione, non solo nei libri ma anche nei giornali, come amo sempre ripetere. E poi, per una cosa un pochino più leggera, dalla Stampa, un articolo dove Davide Lessi ci racconta come ci sia questo fenomeno del prendi la cena e scappa senza pagare il conto, un fenomeno in crescita. Lessi ha sentito un po' di ristoratori. E poi c'è un ricordo di Pieraccioni, ricorderete nel film I Laureati c'è una scena in cui appunto lui e i suoi amici scappano. Ultimissima segnalazione che vi faccio prima di dare la parola a Irene è sempre dalla Stampa, che ci racconta questo incredibile, bravissimo disegnatore Jonathan Kingdon, e ci sono 4 suoi disegni pubblicati, guarda Irene che bellezza, è specializzato in illustrazioni di animali, e c'è una sua mostra in questo momento a Trento, lui è zoologo però anche disegnatore, e in questo momento in cui abbiamo parlato tanto anche di Africa per la storia del leone Cecil, qui invece c'è insomma la faccia dolce, la faccia tranquilla, gli animali non disturbati disegnati da questo grande zoologo.